Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Insomma, si dice in questi casi estate rovente, frasi fatte, estate rovente per i mercati, sarà anche rovente, sicuramente è un'estate che procede male per l'Italia. In questo momento la borsa italiana è la peggiore di nuovo, sembra un po' la fotocopia di lunedì scorso, la peggiore in Europa. Meno 3%, Parigi perde un punto in meno, meno 1,90, Francoforte meno 1,60, Londra meno 1,40, l'America meno 1,20. Ma soprattutto di nuovo preoccupare è la differenza tra quanto rendono, o meglio tra quanto deve offrire il nostro governo per trovare finanziatori del suo debito e quanto deve offrire la Germania usata come riferimento. Si chiama spread, è la differenza tra quanto rende una nostra obbligazione rispetto a una tedesca. È tornato a un livello record. Non solo sopra i 300 punti, che furono il picco toccato nel lunedì nero della settimana scorsa, è arrivato a 338 punti, e poi sceso a 329, adesso è risalito a 334. Comunque, insomma, il punto è che noi che dobbiamo emettere tra il 26 e il 28 luglio dobbiamo trovare finanziatori per circa 25 miliardi di obbligazioni. Nel caso specifico, il 26 luglio ci sarà un'offerta di botta a 6 mesi e CTZ per 10 miliardi. Il 27 luglio sarà la volta del BTP, per 1 miliardo di BTP. Il 28 luglio di nuovo BTP a 3 anni, BTP a 10 anni, per un ammontare compreso tra i 6 miliardi e mezzo e i 7 miliardi e mezzo. Pagheremo di più, paghiamo già di più con uno spread più alto, e il calcolo è più o meno di 2 miliardi e mezzo in più. Se venisse confermato, lo ricordo ogni volta, ogni punto percentuale in più di interessi sul nostro debito in un anno vale più o meno 16-17 miliardi, per cui attenzione, in questo momento già paghiamo 2 miliardi e mezzo come effetto dell'attacco speculativo, dicono alcuni. Io non so se sia solo speculazione, i fondi pensione americani, i fondi pensione inglesi non sono speculazione, vanno laddove o vendono laddove si ritiene più debole il mercato e si dirigono su altri lidi. Poi ci sarà sicuramente la speculazione, ci mancherebbe, però attenzione, in questo momento c'è una debolezza dell'Italia nel contesto europeo. Da quello che si legge, Financial Times, Economist, giornali stranieri, la debolezza è soprattutto di carattere politico. Voglio tornare a sottolineare che non c'è stato un peggioramento nei conti pubblici italiani. C'è una manovra che è vero che sposta in là al 2013-2014 tutta la parte grossa, però è anche vero che è una manovra che è stata approvata e ha ricevuto il plauso sia di Bruxelles che della Banca Centrale Europea. Per cui l'incertezza politica è quella che penalizza in questo momento il paese, stando a quello che vediamo, mancando altri elementi. Cioè, non c'è, lo ripeto per la seconda volta, un peggioramento del deficit e un peggioramento del nostro debito, motivi invece che hanno coinvolto e travolto Grecia, Irlanda e Portogallo anche in parte. Di questo parleremo in apertura. Oggi la puntata sarà molto italiana, perché nella seconda parte, a fronte di un attacco dei mercati alla debolezza, ripeto, politica italiana, sta esplodendo, come era immaginabile, la seguiamo da settimane, tutta la vicenda dei costi della politica. Allora, ci sono anche alcune iniziative che adesso vi racconterò in breve, poi ne parleremo più avanti. Tenetevi forti, una bella dose di Malox anche oggi, perché quando racconteremo quanto costa la politica in Italia, è chiaro che uno meglio che non guidi la macchina in alcuni casi. Ve li do solo un dato, poi ne parliamo con calma. I collaboratori più stretti di Barack Obama, cioè del numero uno al mondo quanto a potere politico, guadagnano al massimo 172.000 dollari lordi, che vogliono dire circa 118.000 euro. Ebbene, sono 15.000 euro in meno rispetto a quanto prendeva un barbiere del Senato 4 anni fa, adesso probabilmente è aumentata, per cui il consigliere di Barack Obama guadagna 15.000 euro meno del barbiere del Senato. Ma siamo d'accordo che il barbiere ha anche una funzione molto delicata, passando con la lama, diciamo, in zone sensibili del volto. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Restiamo sui mercati. Chi va peggio oggi in borsa? Beh, tanto per cambiare le banche. Fondiaria Assai meno 7,50, ma soprattutto il Monte dei Paschi. Il tonf è pesante, il 7%, Intesa San Paolo il 6%, Unicredito il 6%, Banco Popolare meno 5,60, Ubibanca meno 5, Popolare di Milano meno 4,50, non si salva Parmalat meno 6,40, né Fiat meno 4,40 come Exor il 4,1, Mediaset perde il 4%, Generali pure, Fiat Industrial, quindi camion e trattori meno 3,60, il 3,16 lo perdono sia Prismian che Finmeccanica, il 3% è il calo di Mediobanca. Positiva di Assorin, più 1,76, Campari più 0,20%. Petrolio in leggero calo a New York a 96,25 dollari il barile. Oro ancora record, ha superato i 1.600 dollari e c'è chi lo vede tra i trader all'obiettivo abbastanza raggiungibile di 1.700 dollari l'oncia. Secondo i broker potrà arrivare a quel livello perché, insomma, sostanzialmente per l'incertezza che domina in America sul debito, anche se si intravede uno spiraglio, e in Europa dove insomma è sotto attacco l'Italia ma anche la Germania, e i CDS anche sulla Germania sono aumentati oggi. E restiamo su questo perché i credit default swaps, ossia il premio che si paga per assicurarsi in caso di rischio default di un paese, hanno raggiunto anche in Germania e in Francia un record di sull'Europa occidentale ha raggiunto un record di 309 punti. Però insomma, se la Grecia guida da poco invidiabile classifica con 2460 punti, Italia e Spagna sono a 320 e l'Italia 360, la Spagna sono saliti a 120 i premi, diciamo, sulla Francia, e anche la Germania a 64 punti, e comunque per la Germania il livello più alto dal marzo del 2009. Poi Irlanda e Portogallo sono a 1160 punti, per cui un altro pianeta. Quanti sono i barbieri? I barbieri alla Camera sono 14, ma 16, insomma, ragazzi, c'è bisogno, eh. Ancora, i costi della politica. Perché ne parliamo oggi? Perché c'è una bozza in un disegno di legge costituzionale di riformare a 250 deputati, 250 senatori, quindi portando da 630 a 250 deputati e da 315 a 250 i senatori, e con la proposta di un Senato federale. E poi un'altra proposta che ai deputati lo stipendio arrivi in base alla presenza, avrebbero guadagnato molto poco l'anno scorso. E poi c'è una proposta, e ospiteremo chi l'ha presentata, che è stata bocciata in maniera quasi bipartisan, calcolare i vitalizi per i parlamentari con lo stesso sistema, cioè il contributivo, con cui vengono calcolate le pensioni degli italiani, le pensioni INPS, visto che la manovra si fa anche sulle pensioni, forse si potrebbe applicare il contributivo anche ai parlamentari, no? C'è chi se la prende con i barbieri, una casta da demolire. Io penso che il barbiere abbia molta poca colpa nel guadagnare più dei consiglieri più stretti di Barack Obama. Parleremo anche di questo sito che sta spopolando. Una cosa impressionante, sono 1000 ingressi al minuto sui costi, un blog sui costi della politica, sugli sprechi, fa notare, è un ex portaborse che non si firma con il suo nome chiaramente, che tra l'altro i barbieri hanno tutti lo stesso accento alle camere, sono cose strane in questo Parlamento. Volete un'altra chicca? Vabbè, ve la do, però poi passiamo alla tempesta sui mercati. Un deputato regionale sardo o anche il presidente della giunta calabrese guadagnano più del governatore dello stato di New York. Hai capito? 11.400 euro un deputato regionale sardo, perché anche le regioni non scherzano, eh? E il presidente della giunta calabrese 13.000 euro netti contro 10.000 euro lordi del governatore dello stato di New York. Ma è noto che, insomma, fare il deputato in Sardegna o il presidente della giunta calabrese ha un carico di lavoro e di stress superiore. Va bene, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora iniziamo a raccontare questa giornata, una giornata pesante sui mercati che si sta per concludere e che è iniziata negativa meno 1%, poi meno 2%, poi meno 3%, adesso stiamo prendendo almeno 3,24%, meno male che fra 10 minuti chiude la borsa, dai, almeno quella. L'aggiornamento lo facciamo con Walter Riolfi. No, sorrido perché vedo subito un messaggio che dice: solo un fazioso come lei, Barisoni, può attribuire il calo della borsa a Berlusconi. Oggi stanno perdendo tutti. Allora, se lei vede citato da me il nome Berlusconi, io domani non conduco più questo programma. Abbiamo detto che l'Italia viene attaccata, non, ma adesso chiedo conferma a Walter Riolfi, non per un motivo di peggioramento del deficit, di buco di bilancio, di conti truccati come nel caso della Grecia, di mercato immobiliare come nel caso irlandese che salta per aria, di credito al consumo che non regge, di mercato immobiliare come in Portogallo, di banche e casse di risparmio che sono, diciamo, fragilissime per essere buoni come in Spagna. Noi non abbiamo niente di tutto questo, abbiamo una cosa diversa elevando tutti gli altri indicatori. Walter Riolfi, buonasera innanzitutto. Buonasera. E grazie anche al professor Franco Bruni, che insegna economia monetaria internazionale alla Bocconi di Milano, editorialista della Stampa. Buonasera professore. Buonasera. Dicevo, Walter Riolfi, su questo mi sembra di poter dire che l'attacco non arrivi per un peggioramento dei conti. Poi chiederò anche a Bruni. Raccontaci anche la giornata. Prego Walter. Ma allora, il lettore ha parzialmente ragione, nel senso che stanno andando giù tutti. Questa qui, diciamo, la cosa rassicurante è che questa volta noi non perdiamo troppo più degli altri. In apparenza sì, perché perdiamo oltre il 3%, la Francia perde l'1,8%, ma è solo perché noi, il nostro listino è pieno di banche e di assicurazioni. Se andiamo a guardare poi come si sono comportate le banche e le assicurazioni, scopriamo che in Europa perdono tutti quasi quanto le nostre, un po' meno. Però c'è una situazione che in apparenza paradossale, che però spiega la situazione, il rischio paese. Allora, dagli stress test, Intesa ha avuto più o meno lo stesso punteggio di Core Tier 1 di HSBC, dell'inglese HSBC. Anzi, cioè, ha avuto un ottimo voto su quello che è un indicatore fondamentale nel rapporto tra patrimonio e impieghi, diciamo. E addirittura sarebbe superiore a HSBC nelle situazioni di più avverse, no? E allora, infatti, il Credit Suisse nella sua analisi le porta a modello, no? Quasi delle banche europee. Benissimo, cosa succede oggi? Intesa San Paolo perde non so, poco fa, no, 6,5%, te lo dico subito, 6,5%, 6,60%, 6,60%. Sì. HSBC perde lo 0,95%. E dico, ecco, diciamo che questi 5 punti di differenza sono dovuti tutti al quello che si considera il rischio paese. Il problema è che adesso questo rischio paese è rischio Europa, zona euro. E l'altra cosa inspiegabile sarebbe altrimenti come il CDS, cioè il credit default swap, l'assicurazione sul il debito, premio sull'assicurazione che si paga, certo, per assicurarsi su un debito di un debito paese, quello della Germania sia 63-64, quello degli Stati Uniti sia 44. Fino a tre mesi fa il costo del credit default swap degli Stati Uniti era più elevato di quello della Germania. Però scusami, torno alla domanda e poi la giro anche a Franco Bruni. È chiarissimo, è chiaro ahimè da lunedì scorso e anche da venerdì precedente, che l'attacco sia l'attacco alla zona euro. Quello che però risulta tanto chiaro è che la porta d'ingresso in questo momento è l'Italia. E allora io vorrei sapere perché, mentre sulla Grecia c'erano degli elementi obiettivamente imperdonabili, hanno truccato i conti, mentre sull'Irlanda c'era una tenuta del mercato bancario che è dovuto essere praticamente salvate le due principali banche irlandesi dal fallimento ormai in atto, mentre in Portogallo c'era anche lì una tenuta sul fronte bancario del real estate, dell'immobiliare, e in Spagna ci sono queste casse regionali che sono messe malissimo, tant'è che alcune non hanno passato neanche gli stress test, perché cavolo se la prendono con l'Italia, dove, come tu ricordavi, le banche hanno superato gli stress test, non abbiamo avuto casi particolari di prodotti tossici, il mercato immobiliare non è crollato, i risparmi degli italiani ci sono, il deficit PIL non è peggiorato come in altri paesi, è messa peggio la Francia, perché l'Italia, Walter e poi Franco Bruni. Ma dubbiamente, perché il rapporto tra debito e PIL in Italia è quello più elevato, poi è il debito, è il terzo debito al mondo, e quindi c'è tanta materia su cui lavorare, no? E anche perché poi i portafogli dei fondi pensione americani o comunque dei grandi fondi internazionali erano pieni di titoli di Stato italiani. Però io avrei immaginato che la dimostrazione della nostra classe politica nell'approvare di una settimana la manovra finanziaria, cosa punto, mai successa, se non in qualche altra situazione particolare, avrebbe fatto ripensare un po' i grandi investitori. Ma leggo qui un sondaggio adesso che ha fatto il Wall Street Journal. È tra i 44-49 economisti, no, intervistati. Questi economisti sono per lo più gli economisti delle banche d'affari. Mm-hmm. Allora, più della metà di questi, circa la metà di questi, anzi, è convinta che la crisi in Europa sui debiti sovrani raggiungerà il suo limite quando colpirà completamente l'Italia e la Spagna. Quindi loro non hanno cambiato assolutamente idea. Che questi abbiano torto o ragione è indifferente in questo momento. Mi interessa far vedere cosa pensano i grandi investitori d'Oltralpe, indipendentemente dal fatto che abbiano torto o ragione. E fai bene a ricordare che la finanziaria, qui adesso in una puntata in cui parleremo dei costi della politica, fatemi anche spezzare una lancia a favore della politica, e cioè obiettivamente dopo l'attacco di lunedì scorso la maggioranza e anche l'opposizione hanno lavorato affinché la finanziaria venisse approvata in un tempo record. Ma vi ricordate quando il dibattito iniziava a settembre e finiva a dicembre? Eravamo ancora già in diretta. Adesso in 5 giorni la finanziaria è stata approvata, tutti hanno applaudito, tutti hanno detto bravi, avete fatto bene, ve l'avete blindata, il segnale politico e quindi anche del governo è stato un segnale corretto, è stato un segnale che deve dare sicurezza ai mercati, oggi si riparte. Professor Bruni, allora nemmeno fa la finanziaria in 4 giorni serve, cioè qui l'attacco è all'Italia e basta? Ma guardi, io dico due cose estreme. Da un lato non è nemmeno limitato all'area dell'euro, qui c'è un problema di incertezza finanziaria globale dove gli Stati Uniti hanno forse il posto numero uno e costituiscono il problema principale, e in un ambiente di grandissima incertezza come questo, dove gli Stati Uniti rischiano di essere in default loro e creare un disastro, tra l'altro loro lo possono anche fare perché sono molto autosufficienti, creando disastro solo per gli altri, no, non solo per gli altri, ma insomma… In un ambiente del genere è chiaro che tutto è possibile, qualunque operazione, diciamo, di panico o semplicemente di speculazione azzardata diventa spiegabile. Quindi questo da un lato, tutto il mondo è paese da questo punto di vista. Teniamo presente la situazione dell'Inghilterra, teniamo presente che la Francia non sta provvedendo quello che dovrebbe provvedere per arrivare ad essere sostenibile, quindi ecco, dall'altra l'Italia è in una situazione in cui abbiamo dovuto fare una manovra molto ingente, di una dimensione veramente considerevole, però non basta approvare la manovra con un colpo di bacchetta magica in una settimana con la fiducia e l'opposizione che dice è tutta sbagliata. Qui il problema è se c'è una situazione politica in grado di gestire nei prossimi anni un periodo difficilissimo in cui occorre consenso, occorrono provvedimenti radicali, e questa è una situazione politica che noi non abbiamo assolutamente. Siamo in una situazione politica assolutamente indecente, con una serie di ministri in pericolo, non sostituiti, con una reputazione orrenda da parte del governo in carica, con una reputazione scarsissima da parte dell'opposizione, cioè la situazione politica italiana non è tale da garantire il mercato che ci sia una politica economica in grado di governare il paese nei prossimi anni. Io infatti non capisco perché alcuni ascoltatori, forse con un po' di coda di paglia, se uno dice politica immaginano il governo. Attenzione, politica vuol dire tutto. È chiaro che il governo è governo e governa e quindi ha più responsabilità, ma vuol dire anche opposizione, cioè evidentemente l'incertezza politica non è l'incertezza sul governo, è una cosa un po' più ampia, abbiate pazienza. Se fosse quello l'avremmo già sostituito, perché non c'è. Allora, non c'è, attenzione, io vedo che molti citano la copertina di Der Spiegel. Sapete, Der Spiegel fu quello famoso della pistola sul piatto di spaghetti 30 anni fa. Io non starei a preoccuparmi di una copertina di Der Spiegel, mi preoccupo di più se vedo un atteggiamento un po' di accerchiamento e Der Spiegel e l'Economist e il Financial Times e tutti che iniziano a dire che l'Italia è il problema, sai, poi alla fin fine sono profezie che si autoavverano, perché poi ci credi veramente e inizia a bastonare l'Italia. Ripeto, non vedo dei messaggi, vabbè, oggi sarà una giornata dura. Il punto, no, non può capire. Il punto è che non c'è un peggioramento nei conti pubblici italiani. Su questo possiamo avere una parola unica, Walter Riolfi e poi Franco Bruni. Cioè non è il caso greco, irlandese e portoghese. Walter. Professor Bruni lo può spiegare meglio di me. In ogni caso non c'è un peggioramento dei conti pubblici, anzi una manovra così dovrebbe far pensare che ci sarà un miglioramento dei conti pubblici. Secondo me il problema grave dell'Italia è quello che nonostante questa manovra, o forse anche grazie a questa manovra, qui non ci sarà crescita in questo paese. Quindi quando noi parliamo anche del rapporto debito pubblico su PIL, se non cresce il denominatore, se non cresce il PIL, il rapporto resterà elevato a lungo. Professor Bruni, come se ne esce? Nel senso, nessuno ha la bacchetta magica, però se c'è anche passatemi il termine, una moda nell'attaccare l'Italia per puntare poi all'euro e giocare sull'euro, Italia e Spagna, i due pesci grandi, noi possiamo anche dare tutte le rassicurazioni che vogliamo, approvare una manovra in 5 giorni, una manovra che comunque, ripeto per la seconda volta, ha ricevuto l'approvazione di Bruxelles e di Francoforte, cioè della BCE e della Commissione Europea, ma tanto non cambia niente. No, non credo. Credo che oggi i mercati saranno sensibili, da ora in poi i mercati saranno sempre molto sensibili alle evoluzioni politiche. Se noi riusciamo a varare dei provvedimenti che rilanciano la crescita, se anticipiamo un po' di questi costi di almeno un anno, al 2012, se facciamo qualcosa sui costi della politica seri, se facciamo un governo magari di transizione, ma che porti a delle convergenze politiche serie, secondo me il mercato ci premia. Però come risposta politica? Politica, assolutamente, perché la parte economica segue, ha ragione Riolfi, ci vuole la crescita. Fra l'altro, se il tasso di crescita medio dell'Italia non va verso il 2%, noi comunque non ce la facciamo a rispettare gli impegni europei, anche con questa finanziaria. Allora, e torniamo dove eravamo partiti, mi dispiace, e cioè che la soluzione in questo momento non può più essere di carattere economico, cioè manovra, tanto la manovra c'è già, deve ancora partire, ma è stata votata, ma deve essere di carattere politico. Walter Riolfi, detto questo però, la Spagna continua a essere sotto attacco, cioè abbiamo visto un aumento degli spread anche in Spagna rispetto alla Germania. Sì, da due sedute tra l'altro la differenza dello spread tra il BTP nostro e il bonus, cioè il titolo, l'equivalente al titolo di Stato spagnolo, se è tornato leggermente ad ampliarsi dopo che si era ridotto per una decina di giorni. E la Spagna è una situazione, io direi, peggiore di quella dell'Italia. Vabbè. No? L'Italia, diciamo, ha questo grande vantaggio per gli investitori internazionali o speculazione, ma in realtà sono gli investitori che ha tanti titoli di Stato in circolazione che sono nei portafogli dei maggiori fondi. Sì, però noi siamo anche un popolo che detiene molto del suo debito. Professor Bruni, cioè, ho capito, ma 60% vado a memoria, molto meno è sceso, nelle nuove aste addirittura siamo sul 40% o anche meno. Però il professor Bruni lo saprà meglio. Professor Bruni, su questo io ripeto, sarà perché poi credo ancora che i fondamentali di bilancio, i fondamentali economici abbiano un senso. Mi rendo conto che fra un po' mi manderanno in un'isola del Pacifico, diciamo. Però attaccare l'Italia, che ha sì un alto debito ma non l'ha avuto in peggioramento, ha un risparmio privato che è il 180% del PIL, uno dei più alti in Europa e anche al mondo, ha delle obbligazioni, cioè titoli di Stato che sono comunque non in più al 60% ma in buona parte in mano agli italiani, non è comunque rischioso, a meno che l'obiettivo non sia spaccare proprio in due l'Europa? il risparmio italiano sta decrescendo un po', e la situazione, come dico, è ai limiti dell'ingovernabilità da tanti punti di vista. Però poi mi lasci dire che l'Italia può in parte riflettere una situazione di difficoltà europea che comunque è grave. Se l'Europa non si mette in grado di gestire questa crisi più autorevolmente, con dei provvedimenti più drastici, giovedì ci sarà un Consiglio europeo molto importante, speriamo che ci si arrivi con le idee un po' più chiare. Bisogna chiaramente prendere un provvedimento drastico che annulli le possibilità di default nei prossimi 2 anni di qualunque paese, cioè soprattutto il caso greco-portoghese va chiuso definitivamente nel dubbio delle persone. Si riapre il discorso col 2014-2015 e con il nuovo meccanismo che è già stato votato. Ma non possiamo continuare con questa incertezza, con la Merkel che litiga con la Banca Centrale Europea, insomma è una situazione... Sì, diciamo che da questo punto di vista il fatto che stia peggiorando anche la situazione con quanto a spread e CDS della Francia, da un lato, e comunque anche la Germania ha visto aumentare il premio sulla sua polizza, poca roba rispetto all'Italia, ma insomma forse il mal comune più che mezzo gaudio, mal comune è comune preoccupazione, così... per usare la metafora di Tremonti, capisce anche il Nord Europa, capisce che quando affonda Titanic affonda anche la prima classe. Sì, dobbiamo imparare che siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo lavorare veramente insieme, delegando molto al centro. Ci vuole questo meccanismo europeo di stabilità che abbia una delega forte, con la possibilità di prendere decisioni senza cercare continuamente il consenso politico dei ministri. Almeno la Grecia in questo modo la dobbiamo dimostrare di saperla salvare nel giro di pochi giorni, cioè è una cosa ridicola, perché la dimensione del problema greco è ridicola, l'Europa potrebbe chiuderlo domani, l'unica cosa è che deve dare un segno di smetterla di litigare sui dettagli solo perché ognuno ha i suoi scrupoli, bisogna delegare l'istituzione di Bruxelles a fare quello che è necessario per chiudere l'episodio greco, da qui, almeno per un qualche anno, poi dopo naturalmente la Grecia va monitorata perché non lo ricostituisca, ma... Pronto? Andiamo bene, proprio bene. No, mi volevo un attimo sdrammatizzare, Bruni, perché sennò stavo impazzendo. Almeno la sorellella ci aiuta ogni tanto a rifare il punto. Vedremo. Io penso che forse la parte più positiva potrà essere positiva, se si può vedere qualcosa di positivo. Potrà essere il fatto che i timori che vada giù anche la prima classe, cioè la Francia e la Germania, forse fanno capire che la barca è unica, forse. Certo. Grazie comunque a Franco Bruni, che appunto insegna economia monetaria internazionale alla Bocconi di Milano, editorialista della Stampa. Grazie a Walter Iolfi, meteo, pubblicità, poi la borsa. :17:37, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vi do subito l'aggiornamento per quello che riguarda i mercati, che hanno chiuso meno 3,06% Milano, non sui minimi, ma insomma è arrivata a perdere 3,20-3,30, Parigi meno 2, Francoforte meno 1,5, Londra meno 1,3, l'America meno 1,3, euro a quota 1,40. Pesante, molto pesante la giornata sulle banche, cali tra il 7 e il 5% per dare un'idea. E poi, visto che si continua a dibattere se appunto che cosa abbia scatenato questo attacco all'Italia, sempre più palese, siete troppo pessimisti, che bello, ha ragione lei, spero che lei abbia ragione, scrive un ascoltatore. Segnalo che Goldman Sachs oggi se ne esce con uno studio in cui dice: sull'Italia l'incertezza resta elevata e pesa la potenziale incapacità del governo a fare i tagli, che aumenta i timori. La potenziale incapacità del governo a fare necessari tagli di bilancio ha aggiunto timore al peso delle misure di austerity. È tuttavia incoraggiante, dice Goldman Sachs, il fatto che Camera e Senato abbiano appoggiato i piani di budget, cioè la finanziaria del ministro Tremonti. Grazie a Goldman Sachs che per averci ricordato che sull'Italia l'incertezza resta elevata. Magari se ci spiegasse anche come ha aiutato la Grecia nel 2000-2007 a truccare i conti, ci farebbe un favore. Goldman Sachs becca il gufo oggi, poi partiamo con la borsa. Ah, Borsa con i colleghi di Radio Colli sulle 24 ore, Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. Vabbè, io do adesso le banche, tanto insomma ne abbiamo parlato con Walter Iolfi, con Franco Bruni fino adesso, al di là del caso Fondiaria Sai, ma Monte dei Paschi perde il 7,22%, Banco Popolare meno 6,70%, Intesa meno 6,5%, Unicredit meno 6,3%. UbiBanca meno 5, Banca Popolare di Milano meno 4,70, Generali meno 3,75%, e direi che abbiamo quasi finito col mondo bancario, mentre tra chi perde e non è banca, cito anche Parmalat meno 7,14 da un lato, dall'altro Fiat meno 4,40, Mediaset meno 3,80 come Exor, la controllante di Fiat, e Fiat Industria meno 3,20, Impregilo meno 3,12, Prismian meno 3,11, Buzzi Unice meno 3%, Mediobanca meno 3, Finmeccanica meno 2,90 come Ansaldo STS, Telecom Italia meno 2,20%, A2A meno 2%, positiva Diasorin più 2,26, Campari più 0,30%. Al di là dei bancari, Fondiaria Sai che insomma paga tanto nonostante l'aumento di capitale si sia chiuso con successo. Sì, venerdì scorso infatti si è chiuso l'aumento di capitale per la compagnia assicurativa, aumento di capitale che alla fine è risultato da 446 milioni di euro, ma evidentemente la borsa non è convinta, ha fatto scivolare le azioni, del resto numerosi analisti hanno comunque rivisto al ribasso la valutazione sulla società. Comunque Fondiaria Sai è andata senza dubbio peggio rispetto alle altre assicurazioni, ma anche tutte le assicurazioni europee oggi hanno fatto particolarmente male, con il sottoindice dice Stock 600 che ha perso il 3,4%. Semmai, Sebastiano, una postilla per dire che, come hai notato tu, c'è un attacco a Piazza Affari o alla manovra, ma al di là dei giudizi va rilevato che mentre da inizio anno Parigi ha perso il 4%, Francoforte il 2,8%, Londra il 2,3% e persino Madrid il 5,19%, da inizio anno il FTSE All Share ha lasciato sul parterre l'11% e il FTSE MIB l'11,3%. Evidentemente quindi gli investitori sono molto critici nei confronti della piazza italiana. Sì, fermo restando che noi abbiamo un settore bancario che pesa di più sull'indice rispetto agli altri mercati europei, perché pesano tanto le banche. Comunque il dato è molto significativo: Madrid ha perso da inizio anno la metà di quanto non abbia perso, o meno della metà di quanto non abbia perso Piazza Affari. Anche a Madrid le banche pesano sull'indice. Poi la Gran Bretagna ha perso il 2,3%, la Germania 2,8%, la Francia il 4%, noi oltre l'11% di calo sul listino. Io ritengo che a questi livelli di prezzo le banche siano a sconto, ma non faccio gestore, non do consigli, quindi andiamo avanti con i titoli. Parmalat. Sì, Parmalat oggi è scivolata, meno 7,15%, si è portata sulla soglia dei 2 euro, ricordiamo che l'OPA di Lactalis era stata fatta a 2,6 euro, dall'8 luglio, giorno in cui si è conclusa l'offerta da parte del gruppo francese, i titoli hanno perso oltre il 20%. Ancora il gruppo Fiat, pesante oggi, a partire da Fiat Auto e anche Exxon. Sì, Fiat è partita male, alla fine ha perso il 4,3%, soprattutto Fiat S.p.A. Ovviamente il mercato si interroga su quello che sarà il futuro della società, soprattutto dopo che l'amministratore delegato Sergio Marchionne ha detto che sospenderà gli investimenti sul piano Fabbrica Italia, il che non significa che coinvolgerà gli investimenti a Pomigliano d'Arco, dove viene prodotta la Panda, ma a Mirafiori e in altri stabilimenti. Ovviamente il mercato ha recepito male questo segnale, e poi intanto sale anche l'attesa per i conti del secondo trimestre che verranno diffusi dalla casa auto il prossimo 26 luglio. Ancora Diasorin, un titolo positivo, dai. Diasorin è andata su, sul finale ha fatto più 2,2%, abbiamo cercato motivazioni, ma al di là di diciamo giustificazioni prettamente tecniche non ci sono molte spiegazioni, se non il fatto che la società comunque viene recepita come una società a basso rischio e poco esposta sull'Italia, e comunque è concentrata su un business che piace agli investitori. Allora, ancora due note positive. Pirelli se l'è cavata con un meno 1%, e poi tra i titoli migliori e peggiori, Bio era che oggi debuttava, ha fatto alla fine più 35%? Sì, esatto. Per quanto riguarda Pirelli, numerosi investitori stanno facendo un po' il confronto con i multipli rispetto alle altre case pneumatiche europee e Pirelli appunto risulta essere a sconto rispetto ad altre case, quindi da lì, nonostante peraltro la performance degli ultimi mesi sia stata buona, le azioni continuano a essere abbastanza considerate interessanti dal mercato. Bioera oggi invece è tornata sul mercato più 35%, quindi si può dire un debutto con il botto. E tra l'altro ricordiamo che di Bioera oggi parte anche un aumento di capitale del controvalore di 3 milioni proprio per il rilancio della società, in cui evidentemente Piazza Affari sta credendo. Allora, investimento e sviluppo meno 10,75, Icon meno 10,21, sono le peggiori, tra le migliori, oltre a Bioera cito anche Montefibre sulle risparmi più 6,5, Acque Potabili più 3,60, Best Union più 4,80%. Grazie Donora Micheli, adesso c'è il traffico e poi parliamo dei costi della politica, non per fare una puntata fredda, c'è un disegno di legge di riforma costituzionale che dovrebbe toccare anche i costi della politica a partire dal numero dei deputati e dei senatori. Si stanno sprecando in questi minuti le dichiarazioni dei politici per fare una riforma dei tagli, una riforma dei costi che porti dei tagli, perché si sono resi conto che forse rinviare tutto a dopo il 2013, dopo la prossima legislatura, beh, forse il tempo non è così alto e la pazienza, a giudicare dai messaggi e da quello che vi racconteremo tra poco, la pazienza è ancora meno alta. ...17:47, dicevo, domani incontro tra i questori della Camera e del Senato per mettere a punto i tagli alle spese del Parlamento. Nulla si sa ancora sulle misure che verranno intraprese, nel frattempo c'è una bozza del disegno di legge costituzionale che dovrebbe portare a 250 deputati da 630 e a 315 senatori da 250 senatori da 315. Nasce il Senato federale, altre richieste, tra cui quella di legare, proposte di legare la pensione dei deputati al calcolo che si fa per tutti gli altri cittadini, quindi col metodo contributivi. Dentro la bozza del governo c'è anche l'idea che i deputati vengono pagati in base alla loro presenza parlamentare. Insomma, si corre ai ripari perché qualcosa sta montando nel paese e forse hanno venuto in mente anche la prima classe di Tremonti. O si va avanti o si va a fondo. La soluzione o è politica o non è, o è comune europea o non è, senza illusioni di salvezza per nessuno. Come sul Titanic non si salvano neppure i passeggeri di prima classe. Non è solo una questione specifica di singoli stati, è una questione comune che riguarda la credibilità politica dell'euro e dell'Europa. Serve una visione alta sul nostro futuro. Serve la costruzione di una governance capace di guidare unitariamente e autorevolmente i 17 Paesi membri verso un destino comune. La logica politica, che da sempre è parte della costruzione europea, la logica di risolvere i problemi interni dei Paesi membri per facilitare il processo di unione, si è come ribaltata. In alcuni Paesi sembra che si antepongano i problemi interni alla costruzione comune. L'estrema destra della destra sta dando in molti parlamenti un contributo negativo in questo senso. E chissà se la prima classe a cui faceva riferimento il ministro Tremonti vale anche a livello interno, e cioè se va avanti così anche la prima classe, chi viaggia in prima classe in tutti i sensi, finisce travolto. Non mi riferisco ai 24 miliardi e mezzo che costa la politica in Italia ogni anno, 1.300.000 di persone che ci lavorano e ci vivono, ma mi riferisco per esempio a alcuni raffronti. Praticamente in America, negli Stati Uniti, Camera e Senato pesano sulle casse dei contribuenti 100 milioni di euro in meno che da noi. Peccato che ogni americano spenda 5 euro l'anno per un suo deputato, gli italiani 25 euro l'anno. E non è tanto quello che citavo prima, cioè che il barbiere del Senato quattro anni fa guadagnava meno dei consiglieri più stretti, collaboratori più stretti di Barack Obama. 118.000 euro i consiglieri di Obama, 15.000 euro in più li guadagna il barbiere del Senato. Che di responsabilità ne ha, ripeto, perché insomma, tocca luoghi delicatissimi della vita politica. E nemmeno al fatto che un parlamentare in Italia costi 11.700 euro lordi al mese contro i 7.000 euro della Germania, che costa, è un paese dove la vita costa meno notoriamente, o la Francia, 6.800, la Finlandia, altro paese economico, un parlamentare prende solo 5.000 euro, la Spagna 2.000 euro. Ci sono poi delle cose bellissime, vai col Malox, oggi il presidente della regione Sicilia guadagna il doppio di quanto guadagna un governatore americano, il doppio, al netto guadagna il doppio del lordo, sono 7.780 euro lordi quelli dei governatori americani, e i 19.000 dipendenti della regione Sicilia costano il 40% in più dei dipendenti dei ministeri romani, cioè 43.000 euro l'anno. Ma quello che citavamo prima è che un deputato regionale sardo, così come il presidente della giunta calabrese, guadagna molto di più rispetto al governatore dello stato di New York. Chiudiamo con una cosa e poi saluto gli ospiti. In Emilia-Romagna, questo per parlare anche delle regioni, c'è un unico centro che fa milioni di analisi l'anno, parliamo di sanità in questo caso. Il costo medio di queste analisi è 50 centesimi l'una. In Campania, dove la sanità notoriamente funziona molto bene, ci sono 1.200 centri privati, 1.200 centri privati convenzionati, 1.200 centri privati convenzionati per fare le stesse analisi al costo di 6-7 euro l'una, cioè 14 volte in più. E io pago, e io pago! Allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento da un lato il collega del Sole 24 Ore Gianni Trovati. Gianni, buonasera. Buonasera a voi. E dovrebbe esserci anche il collega del Corriere della Sera, che ormai sui costi della casta assieme a Gian Antonio Stella ha costruito una fortuna. Sergio Rizzo, ciao anche a te. Ciao, ciao. Cioè, tu sei quello che veramente si è arricchito sui costi della casta, no? Sì. Allora, comunque in Sicilia di centri convenzionati privati ce ne sono ancora di più. Ah, ecco. Sono 1.800. Allora, vorrei capire da Sergio Rizzo e poi Gianni Trovati se, intanto una prima analisi, se la reazione che vediamo oggi in Parlamento, poi nella seconda parte con voi verrà anche il deputato dell'Italia dei Valori che ha proposto di agganciare le pensioni al metodo contributivo che usiamo noi, gliel'hanno bocciata in maniera bipartisan se non ricordo male, comunque vorrei capire, Rizzo e poi Trovati, la reazione di oggi, cioè il correre in fretta e furia, l'incontro tra Berlusconi e Napolitano, la bozza, il disegno di legge per i due deputati, cioè è la sensazione che il tempo stia stringendo anche sui costi della casta, Sergio? Secondo me è la sensazione che la gente ne abbia le tasche piene e che questa marea montante di indignazione ormai comincia a far sentire, a fare breccia anche nella sordità con cui i nostri rappresentanti hanno finora trattato questi argomenti, insomma, no? Sordità nei confronti delle lamentele, dei mugugni della gente comune che si vedeva tagliare le pensioni o mettere i ticket per la sanità mentre loro signori, diciamo, continuavano tranquillamente ad avere gli stessi trattamenti milionari di prima. E una classe politica sempre più sorda e prepotente che però a un certo punto deve fare i conti con una realtà che sta diventando ingestibile per loro, credo, no? E lo dimostrano i 250.000 contatti alla pagina Facebook di quel anonimo precario della Camera, Spader Truman, che ha scosso la rete in un modo incredibile. Tra l'altro mi risulta che ci siano reazioni anche a livello internazionale. Sì, allora raccontiamola questa. Praticamente un ex precario che lavorava alla Camera, che si firma Spider Truman, ha aperto su Facebook una pagina che si chiama I segreti della casta di Montecitorio. Pensate che le iscrizioni arrivano a livello di 1.000 al minuto, una cosa fuori ogni grazia di Dio. 260.000 iscrizioni alle 17, 260.000. Praticamente rivela come vengono usate le scorte armate per fare la spesa, come ottengono i deputati gli sconti sull'auto e le bollette telefoniche, l'assunzione dei barbieri della Camera. Quanti sono i barbieri della Camera? 16 o 14, Rizzo? 16. Ma guarda, erano 16. No? Ecco, beh, giustamente. Che parlano tutti lo stesso accento. E ancora le scorte di polizia ottenute spesso grazie a finte lettere di minacce, viaggi aerei gratis per amici e parenti dei parlamentari, finte denunce di furti di computer portati ed effettuati dai deputati solo per avere diritto al rimborso a comprarne altri. E già hai trovati impressionante i 250.000 o 260.000 iscritti su Facebook. Questa mattina si è aperta la pagina, sono 270.000 in questo momento. E è impressionante anche che forse qualcosa si muove, no? Diciamo, forse qualcosa si muove, è facile però sottolineare che il Parlamento aveva un'ottima occasione, molto più rapida di un DDL costituzionale che in questi momenti di tensione politica è difficile da mandare in porto, aveva un'occasione nobilissima, cioè la manovra per mettere mano davvero a questo tipo di costi, e ha deciso di sostanzialmente non farlo. È successo 4 giorni fa il fatto che in una riunione notturna del Senato si sia corretta la norma sulla promessa riduzione delle indennità dalla prossima legislatura, e la si è corretta in maniera tale che comunque sia, anche se si farà questo taglio, anche se ci sarà la commissione eccetera eccetera, il taglio comunque sarà più leggero di quello che prevedeva la pur generosa, diciamo, versione originale del provvedimento. Quindi la settimana scorsa, non 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, si è usato l'escamotage per tagliare le unghie ai tagliatori, diciamo così, e adesso questa settimana siamo in una settimana nuova, ma anche in un'epoca nuova, per cui si fa il Senato, sì, cioè, vabbè, il Parlamento, la strizza, persone eccetera. La strizza fa 90, diciamo che già modificare una norma che tagliava i tuoi costi di notte tempore, di notte si incontrano persone, diciamo così, non edificanti. Di solito non male chi chiede se i barbieri della Camera abbiano accento sivigliano. No, non è sivigliano, ma ne riparliamo con Sergio Rizzo e con Gianni Trovati tra 7 minuti dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni in un lunedì che ormai chiamare nero è assolutamente retorica. Bruciati 91 miliardi di euro di capitalizzazione nelle borse europee oggi, con Milano che ha perso più del 3% e con le banche di nuovo in fortissimo calo, ripeto, cali tra il 7,2% del Monte dei Paschi e sostanzialmente il 3% di Mediobanca. Stiamo ragionando delle proposte di legge che in maniera anche così repentina stanno arrivando per ridurre i costi della politica. Volete sapere il nome del sito che sta collezionando una cifra da capogiro, 270.000, non è un sito, è una pagina di Facebook per la precisione, si chiama Spider Truman. Sono 270.000 già iscritti, è apparso questa mattina. È un anonimo assistente parlamentare licenziato dalla Camera dopo 15 anni di precariato, che si è messo a raccontare quello che ha visto in questi 15 anni. Le proposte sono arrivate dal disegno di legge costituzionale. Sono d'accordo con Gianni Trovati: se si voleva, si poteva fare inserire un taglio dei costi della politica direttamente nella legge finanziaria, si risultava più credibili. E allora ripartiamo dai costi della politica. O si va avanti o si va a fondo. La soluzione o è politica o non è. O è comune europea o non è. Senza illusioni di salvezza per nessuno. Come sul Titanic non si salvano neppure i passeggeri di prima classe. Su questo in realtà molti fanno notare che sul Titanic morirono molti più passeggeri di terza classe, di quarta classe rispetto a quelli di prima classe, però insomma anche lì non scherzavano. Altre cifre sulle regioni: Lazio ha il record di commissioni consiliari, 20 commissioni contro le 8 della Lombardia. Le commissioni costano alla Regione Lazio 7 milioni di euro l'anno. È la stessa regione che riesce a trovare i soldi per 20 commissioni, cioè più di due volte quelle della Lombardia, ma non riesce a trovare i soldi per pagare gli stipendi all'ospedale Santa Lucia, ne abbiamo parlato moltissime volte, in cui vengono curati i bambini e non solo, con gravi problemi neuromotori, e gli infermieri e i medici aspettano lo stipendio da mesi. Polverini, quando vuole, noi siamo qui, rinnoviamo l'appello a parlarne. Però non è solo il sud, eh. Invento hanno speso 75.000 euro per uno studio sullo sviluppo del turismo congressuale verso forme di organizzazione e gestione evolute. A gestione evoluta, secondo me, non spenderli. Beh, poi c'è la regione Campania che non si fa mancare nulla, la precedente giunta, 192.000 euro per un team di animatrici di pari opportunità, che coi tempi che corrono. Sergio Rizzo, ripartiamo dal commento di molti ascoltatori. La sensazione è che però, sì, il Titanic affondò tutto, ma in prima classe se la cavarono meglio. Ecco, secondo te, sotto sotto, visto che, come diceva Gianni Trovati, se veramente si voleva essere credibili bastava inserire queste riforme dentro la finanziaria, dentro il disegno di legge sulla finanziaria, tagli subito, agganciare le pensioni al contributivo, anche la proposta di che uno venga pagato in base a quanto è presente in aula, secondo te sotto sotto l'idea è di una salvezza comunque per la prima classe, e che quanto capitò nel 92 non sia più ripetibile? Allora, intanto bisogna fare una distinzione. Io penso che Tremonti, quando ha fatto la proposta di far partire la media europea della prossima legislatura o dalle prossime nomine, abbia fatto un ragionamento non peregrino, cioè per mettere a riparo dai possibili ricorsi che inevitabilmente sarebbero scattati. Sappiamo come funziona in Italia, no? Cioè il paese delle zecche carbugli, no? Dove basta, come dire, andare un attimo sopra le righe per scatenare poi la magistratura amministrativa, il corso della Corte Costituzionale, quindi questo passo. Quindi da quel punto di vista forse, diciamo, il punto di partenza, l'approccio non era sbagliato, però inevitabilmente le domande vengono fuori, no? Ma perché forse i pensionati non avrebbero potuto fare pure loro i ricorsi vedendosi ridurre l'adeguamento al minimo, l'adeguamento, insomma, coefficienti di inflazione al di sopra dei 1.400 euro, perché forse i risparmiatori non avrebbero potuto fare ricorso vedendosi aumentare la tassa sul deposito titoli addirittura del 100% in alcuni casi, perché forse i malati non avrebbero potuto fare ricorso, no, vedendosi raddoppiare il ticket per la diagnostica, cioè. È questo che fa arrabbiare, che ci sia come sempre il discorso dei due pesi e delle due misure. Allora, probabilmente è vero che non si sarebbe portato a casa granché con quelle misure, anche se applicate immediatamente, ma ci voleva un segnale importante per restituire credibilità a una classe politica. Guardate che qui c'è un problema serio che riguarda non soltanto i passeggeri di prima classe, ma che riguarda la democrazia. Perché un paese, diciamo, dove la classe dirigente ha il discredito a questo livello, cioè a livello appunto del moto impetuoso che abbiamo visto su Facebook quando Spider Truman ha messo le sue denunce, ebbene, diciamo, è un discredito che poi inevitabilmente si riflette sullo stesso sistema democratico. So come dire, quando Tremonti parla di credibilità, parla di poi un problema molto serio, molto importante. La cosa pazzesca è che questa classe politica non abbia minimamente pensato quale fosse la posta in gioco, no, prima di, diciamo, armare le mani, diciamo la verità, di qualche forse così che si è prestato a fare un emendamento nottetempo in un modo anche abbastanza, come dire, così, molto, direi, molto sgradevole, no? Cioè quelle cose che si fanno per non farsi vedere, no? No? Di notte si fa un emendamento che annacqua fino quasi a zerarne la portata, no? Quella norma sulla media europea, che poi era il cuore del provvedimento, se vogliamo, no? Allora, Gianni Trovatti, anche per te la stessa risposta. Poi intanto ringrazio perché ci ha raggiunto in collegamento anche il prossimo ospite, in cui sentiremo delle belle. Però vorrei capire perché non si è avuta la sensazione fino adesso, cioè per la sensazione che tanto per l'idea che tanto la prima classe, per quanto possa pagare, paghi di meno? Allora, qui è un problema di questa indignazione a ondate, diciamo, di un paese di scarsissima memoria, nel senso che un anno e mezzo fa, per esempio, c'era l'emergenza corruzione, si è fatto in pompa magna il DDL anticorruzione con una serie di misure più o meno forti, più o meno draconiane contro la corruzione, lo si è infilato in un cassetto di una commissione parlamentare e lì è rimasto. L'emergenza corruzione non c'è più. Adesso non c'è più, nel senso che non c'è più l'emergenza, c'è ancora la corruzione, ma non c'è più l'emergenza. Almeno uno dei due l'abbiamo eliminato, dai. Esattamente. Ora c'è l'emergenza dei costi della politica, si fa un DDL costituzionale che quando si presentano dopo metà legislatura i DDL di riforma costituzionale, insomma, hanno perché hanno dei tempi tecnici per l'approvazione, perché hanno un iter più complesso dei disegni di legge ordinaria, la difficoltà di portarli al traguardo è elevata. E inoltre c'è il fatto che, al di là del merito delle singole norme più o meno importanti, più o meno incidenti sui costi della politica, pare che queste ultime due settimane siano state un manifesto dell'inconsapevolezza, nel senso che il Parlamento ha fatto di tutto, sembra avere fatto di tutto per aumentare il discredito, perché per esempio nelle primissime bozze, prima che si presentassero le versioni ufficiali, così ti introduco anche il prossimo argomento, era previsto l'annullamento immediato dei vitalizi. I vitalizi per i titolari di tutte le cariche elettive, quindi non solo in Parlamento ma anche nei consigli regionali. C'è stato un weekend di terrore all'interno della classe politica, la norma sui vitalizi non è stata annacquata, è stata cancellata, è completamente scomparsa fin dalla prima. Allora, tu prima togli i vitalizi, poi aggiusti la media europea, poi fai questo, poi fai quest'altro, parti dicendo taglieremo tutto, arrivi in Gazzetta Ufficiale dicendo taglieremo qualcosa. Sarebbe stato meglio dire dall'inizio tagliamo qualcosa, si arrivava allo stesso risultato matematico, ma si diminuiva molto quella sensazione, come dire, di attività nascosta per far finta di tagliare, far finta che cambi tutto perché nulla cambi. E io pago! E io pago! Onorevole Antonio Borghesi, di Italia dei Valori, buonasera. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Allora, lei dopo il traffico ci deve raccontare cosa è successo lo scorso 21 settembre, quando lei ha presentato una mozione per rapportare la pensione dei parlamentari a quella degli altri lavoratori italiani. Sì. E poi però nella giornata in cui anche un altro deputato, l'onorevole leghista Stefano Stefani, aveva chiesto di cancellare il servizio dei barbieri della Camera, questi 16 barbieri fondamentali, perché il rasoio va usato con delicatezza. Ce lo racconta dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, vedo moltissimi messaggi al 349-238-6666, ultima parte del programma, e vediamo di capire poi concretamente, al di là delle dichiarazioni di intenti, come reagisce la classe politica quando si fanno proposte concrete. Eh sì. Sì, perché noi spendiamo 45 milioni di euro l'anno per l'affitto degli immobili della Camera e del Senato, perché Palazzo Madama e Montecitorio non bastano. 45 milioni di euro l'anno di affitti. E 100 milioni di euro quasi di rimborso per le spese dei parlamentari, dal viaggio in treno alla bolletta telefonica. 100 milioni di euro l'anno. Faccio notare che i deputati inglesi hanno il rimborso del taxi solo quando finiscono i lavori parlamentari dopo le 9 di sera, cioè quando i mezzi pubblici non ci sono più, altrimenti pigliano l'autobus, pigliano il metro o pigliano il taxi e se lo pagano. Lo so, è populismo, come scrivono alcuni, volete aumentare il discredito sull'Italia. No, guardi, abbiamo degli ottimi aiuti, non si preoccupi. Allora, onorevole Borghesi, lei il 21 settembre 2010 ha proposto che cosa e com'è andata? Ha proposto che i vitalizi dei parlamentari venissero aboliti, trasferendo le somme che noi versiamo di contributi ai nostri enti previdenziali, oppure alla gestione separata dell'INPS, in modo che ognuno poi al 40° anno di versamenti avesse la pensione che gli viene in relazione ai versamenti fatti. Ecco, com'è andata la votazione? È andata che eravamo circa 520 presenti quel giorno, 22 voti favorevoli, quelli di Italia dei Valori, e 490 quello che avanza contrari. 490 contrari e 22, insomma, quindi c'è una coesione nel Parlamento? Probabilmente sì, è emersa ancora di più in questi giorni e io credo che sia abbastanza vergognoso, perché questa del vitalizio è probabilmente la cosa più difficile da digerire che qualcuno lo possa prendere dopo 5 anni. Senta, ma oltre che la casta degli avvocati che ha minacciato, sì, abbiamo avuto una lunga discussione con l'onorevole Paniz la scorsa settimana, sì, che minacciò di bloccare la finanziaria se non levavano la norma sull'ordine degli avvocati, però mi sembra che ci sia anche la casta dei barbieri e degli stenografi, perché cioè il leghista Stefano Stefani aveva chiesto di cancellare il servizio di barberia, sì, sì, della Camera, e citando anche il caso di un barbiere mandato in pensione con 300.000 euro, bocciato. Sì, sì. Poi voi avevate proposto di alzare i costi di panini e le bevande, bocciato. Sì. Intoccabili anche gli stenografi, se ne richiedeva la riduzione del 30%. Ma insomma, sono così importanti? Cioè, no, il vero problema è che, per esempio, un'altra cosa che io chiedevo, non è possibile che quando noi depositiamo qualunque atto, dall'interrogazione parlamentare alla proposta di legge, non ci si chieda contemporaneamente anche il file, in modo che poi si possa utilizzare direttamente per la pubblicazione. No, c'è qualcuno, noi lo consegniamo in cartaceo, e c'è qualcuno che ha detto a riscriverlo pari pari, a ribatterlo, e mi pare che questa è una cosa abbastanza originale, devo dire, perché con le tecnologie di oggi. Ecco, ma è un tema, credo, che sta scoppiando. Volevo anche dire che noi abbiamo presentato una nostra manovra alternativa, nella quale noi abbiamo uno per uno elencato i possibili riduzioni di costi della politica. Siamo arrivati a 15 miliardi di possibili interventi per ridurre. Allora, quando questa manovra come questa alza le tasse di 15 miliardi, io dico, invece di aumentare le tasse, guardate che vi offriamo già una possibilità secca, sì, di arrivarci. Allora, secondo me il taglio dei costi della politica è soprattutto a livello di credibilità e quindi simbolico. Poi risparmi anche qualcosa, ma non puoi fare la manovra sui costi. Però, insomma, 15 miliardi io costi... penserei bene in questa situazione a non prenderli in considerazione. Invece già una settimana prima della manovra, quando c'è stato da votare sulle province, 2 miliardi li valgono, avete visto tutti come è andata a finire. Allora, io vorrei un'ultima domanda per Sergio Rizzo e Gianni Trovati, abbiamo 4 minuti scarsi. Molti fanno l'esempio, partendo dalla situazione economico-finanziaria del 92, Sergio Rizzo, ossia l'Italia lì uscì, la lira uscì dallo SME, fu una manovra terrificante di Ciampi e poi Amato Dini, se ricordo la successione corretta, e iniziò Tangentopoli, nel senso che le imprese avevano difficoltà a reggere il meccanismo di dazione ambientale, come si chiamava al tempo, e iniziarono a denunciare. Allora, e lì si finì con quella cosa poco edificante, lo dico, delle monetine tirate a Bettino Craxi all'uscita dal Raffel. Allora, vorrei sapere una cosa, secondo te quanto corretti sono i paralleli con il 92, visto che tu già lavoravi e come in quegli anni? Allora, il paragone con il 92 è stato fatto da Massimo D'Alema in un'intervista al Corriere della Sera subito dopo, nel 2006, nell'estate del 2007, no? Quando iniziò a esplodere il tema del consiglio della politica. fu lui che disse guardate che di questo passo rischiamo di finire come nel 92, perché Massimo Lavera, che magari potrà essere criticato per molte altre cose, ma certo non per la sua, diciamo, esperienza politica, evidentemente aveva ben capito qual era lo sbocco di questa situazione se non si fosse intervenuto in modo radicale. Io penso che quel rischio ci sia, il rischio delle monetine esista, e che sia un rischio che potrebbe addirittura, diciamo, assumere delle forme speriamo, ancora più incisive. Speriamo di no, francamente. Però che si diano una mossa. Vedo nei toni, perché teniamo anche presente un altro fatto. Oggi c'è un moltiplicatore che è la rete. Allora, quella sì. La vicenda di Facebook, c'era, diciamo, quel nostro anonimo, diciamo, denunciante del precario, non ha fatto che raccontare cose che in realtà hanno già abbondantemente. Però amplifica il fenomeno. Hai ragione, Sergio. Gianni Trovati, abbiamo 30 secondi anche per te. Il rischio del 92 viene evocato, secondo te è corretto o no? Il rischio del 92 viene evocato proprio per quello che dicevamo prima, cioè questa almeno apparente inconsapevolezza, forse non di Tremonti e dei vertici, ma della classe politica media, che poi è quella che fa pressione, che infila gli emendamentini, che come dire, tarpa le norme originarie. E allora dicevamo che c'era un'ondata di indignazione carsica, che passa la prima ondata non succede niente, passa la seconda non succede niente, ma ogni volta, diciamo così, rimane ancorato alla politica un pezzo di indignazione che, come diceva Rizzo, ovviamente non fa bene non tanto ai singoli politici, la cui sorte, come dire, è preoccupazione loro, ma alla politica di cui un paese ha sempre bisogno. E quindi chiudiamo da dove eravamo partiti: c'è un attacco all'Italia che è un attacco politico non sul governo ma sulla tenuta della politica, sulla capacità della politica di far passare riforme pesanti ai cittadini, che penalizza l'Italia più di altri mercati oggi in borsa e porta lo spread italiano a 334 punti rispetto a quello tedesco, e c'è una politica che così interviene perché si è resa conto che forse la pazienza è finita oltre che i soldi. Grazie a Sergio Rizzo da un lato, del Corriere della Sera, Gianni Trovati dall'altro, e anche l'onorevole Antonio Borghesi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.